Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Marco Magni e Magniflex. Da 60 anni i materassi su cui dormono milioni di persone nel mondo. Di Adriano Palazzolo. Oggi ritorniamo indietro nel tempo di quasi 60 anni e andiamo a Prato, patria del tessile. Qui, a partire dal secondo dopoguerra, lavorano i cenciaioli, venditori ambulanti di stracci vecchi e usati che vengono raccolti per essere poi rivenduti. A sfoderare gli stracci sono per lo più ragazzini, pagati poche lire, e il capoluogo toscano in quegli anni diventa una delle città più famose per la raccolta di stracci. Bruno Magni inizia così nel 1959 raccogliendo stracci e nel 1962 con il figlio Giuliano registra il marchio Magniflex, azienda che oggi fa dormire milioni di persone nel mondo sui suoi materassi. A raccontarci questa storia è il nipote di Bruno, Marco Magni, oggi presidente di Magniflex USA. Prato è sempre stata la città dei cenciaioli, no? Quindi prima i materassi, prima dell'avvento delle molle, praticamente venivano utilizzati i materiali di scarto del tessile, che dove Prato era fortissima, e con quelli veniva fatto praticamente l'imbottitura dei materassi. Mio nonno, diciamo i nonni, facevano praticamente questa raccolta per venderlo alle altre aziende che facevano materassi, e dopodiché, dopo un certo periodo, hanno deciso di iniziare a fare materassi per conto loro. Racconti, perché io non ero ancora nato, però insomma, racconti di mio padre, i primi anni producevano i materassi, diciamo, da vendere poi a negozi o a altre aziende, e diciamo quello che faceva mio padre era caricare il camion e partire per andare a Roma. Quando arrivava a Roma aveva scaricato materassi, magari ne comprava altri in zona, andava fino a Sicilia, andava a Sicilia, finiva il carico, tornava su comprandoli, rivendendoli. Poi diciamo dal 62 la distribuzione è diventata un pochino più organizzata. Gli affari procedono, ma vendere un prodotto voluminoso come un materasso non è facile. Con l'arrivo della grande distribuzione organizzata, il padre di Marco, Giuliano, inizia a pensare a un modo per far sì che i clienti dei primi grandi magazzini italiani possano portarsi a casa il proprio materasso senza troppa fatica. Serve qualcosa che lo renda meno ingombrante durante il trasporto. Mio padre è sempre stato un amante delle quantità, quindi i primi veri cambiamenti e sviluppi sono stati verso fine anni 70, quando ha iniziato a aprire la grande distribuzione in Italia. La prima, penso fosse una delle prime, fu la Metro a Milano, e mio padre lì mise materassi che non giravano, diciamo, essendo voluminosi, diciamo non ci fosse questo acquisto d'impulso. E lui raccontava sempre che quando era davanti a questa grande distribuzione e vedeva che sotto Natale che tutti uscivano fuori con i carrelli strapieni di merce, materassi, non ci prendeva nessuno, guidando verso Prato pensava, dice, cavolo, ma se io faccio un materasso piccolino lo portano via. E lì gli venne in mente, cominciò a fare esperimenti per fare il materasso sottovuoto, che è stato poi il prodotto che ha trasformato il mondo, diciamo, del materasso, perché spedire un materasso dall'Italia, che ne so, all'Australia aperto, costa più il trasporto che il materasso. Con un solo metro cubo di spazio oggi si possono spedire ben 13 materassi rispetto ai 3 imballati con il metodo tradizionale. Ciò significa che se prima del 1986 si potevano trasportare 270 materassi aperti, adesso con un'unica spedizione è possibile consegnarne fino a 1200. Ai tempi c'era, diciamo, non veniva fatto sottovuoto, ma venivano pressati i materassi e mandati. Ai tempi vendevamo molto in Nord Africa, vendevamo molto nei paesi comunque che non era così semplice vendere come oggi, comunque Francia, Svizzera. Chiaramente col sottovuoto tutto è cambiato, perché col sottovuoto, cioè, volendo, oggi si spedisce per UPS o comunque per Corriere Espresso, quindi è proprio rivoluzionato il mondo del materasso. Però dall'86 i primi anni non è stato facile, perché la gente non collegava quel rotolino a un materasso vero, pensavo fosse una coperta o pensavo fosse altro, quindi ci è voluto. Poi, se non mi sbaglio, nel 89 o 90 fu fatta la pubblicità in televisione e da lì ci fu un po' il boom, diciamo, del marchio e della distribuzione all'estero. Nel 1986, dunque, Giuliano Magni deposita a livello internazionale il brevetto di imballaggio sottovuoto dei materassi, un tipo di confezionamento che consente di ridurre il loro volume del 90%. Nel frattempo in azienda entrano i figli di Giuliano, Fabrizio, Alessandro e Marco, che insieme si sono occupati di far crescere il marchio. È iniziata la parte del mondo del marketing, diciamo, dove il marchio sicuramente doveva essere spinto, doveva essere organizzato, doveva essere, diciamo, in qualche modo rappresentato al meglio in Italia e all'estero. Però diciamo che in Italia venivamo da una situazione commerciale un po' confusionale, dove alla fine eravamo più forti all'estero che in Italia. Sicuramente quello di controllare la distribuzione, di scegliere i nostri partner, cioè scegliere il rivenditore, formare il rivenditore, dargli un'immagine che sia più vicina possibile a un'immagine che trasmetta cos'è Magniflex oggi. E quella è stata la parte più difficile, anche perché diciamo che tante volte devi anche dire di no, oppure non farti prendere dalla fame di vendere, perché tante volte non fa bene al marchio. Poi negli ultimi, dal 2003-2004 in poi, sicuramente la parte, diciamo, riorganizzativa, e poi negli ultimi, diciamo, 6-7 anni anche con la scuola americana, perché nel 2006 abbiamo aperto l'ufficio in America, e l'America sicuramente ci ha insegnato tanto. Con l'esperienza nel mercato americano, la famiglia Magni trasforma l'azienda sotto tutti i punti di vista, a livello di distribuzione, gestione, organizzazione, prodotto e immagine. Una strategia che permette un'ulteriore crescita e una tenuta negli anni della crisi economica mondiale. Questi anni di crisi economica ci hanno cambiato, perché noi facevamo, tanto per dare i numeri, prima della crisi un 70% private label e 30% marchio, e con la crisi siamo arrivati oggi e facciamo 70% marchio e 30% private label, chiaramente senza perdere quote, cioè senza perdere fatturati. Quindi non siamo mai, durante la crisi non siamo cresciuti, non ci siamo ridimensionati, ma è cambiato completamente l'asset dei marchi e dei clienti all'interno dell'azienda, che è stato solo che un bene, perché alla fine l'azienda è proprio, da 10 anni fa e oggi, completamente diversa, sia come prodotto, come punto prezzo, come marketing e come tutto. Dal piccolo laboratorio di 60 anni fa, oggi Magniflex ha un centro produttivo, sempre a Prato, di oltre 40.000 metri quadrati, da dove ogni giorno escono 10.000 materassi. Tra dipendenti diretti e indiretti, sono circa 180 le persone che lavorano per l'azienda, che ha chiuso l'ultimo fatturato a 76 milioni di euro, che arrivano a circa 90 con i risultati delle altre società del gruppo in giro per il mondo. Ed è proprio l'estero ad aver avuto un ruolo chiave per la crescita, come spiega Marco Magni, voce narrante di questa storia. Come distribuzione a oggi siamo circa un 65% export e un 45% Italia. Questo, diciamo, anche perché in Italia negli ultimi anni siamo cresciuti molto, quindi ha un po' ridimensionato, diciamo, un po' portato l'Italia a essere un pochino più impattante nella percentuale. La strategia, quella di aprire uffici diretti in giro per il mondo, ha fatto sì che l'azienda, diciamo, cresca anche in modo più regolare anche all'estero, comunque spinga anche molto più all'estero. L'export è iniziato, penso, negli anni 70-80. Noi siamo da 20 e passa anni in Giappone, dove siamo praticamente il primo marchio, siamo un po' il Gucci del materasso riconosciuto in Giappone. E poi in Cina stiamo lavorando bene in Corea, stiamo crescendo molto. Quelli, diciamo, più belli, che rispondono meglio, sicuramente è l'Asia, che è molto più diretta, anche se è molto più diretta nel bene e nel male, perché magari si inizia facilmente, però quando c'è le crisi si sentono anche molto più forte. Poi Australia, arriviamo fino a Nuova Caledonia, infatti quando uno va dall'altra parte del mondo e trova il proprio prodotto è sempre bello, e comunque sapendo da dove sei partito, perché da un laboratorietto di Prato essere in Nuova Caledonia o essere alla Hawaii è bello, via. Se 30 anni fa l'innovazione ha cambiato il processo distributivo dei materassi Magniflex con il sottovuoto, oggi la ricerca e lo sviluppo dell'azienda guardano sempre di più verso la domotica, l'applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione dell'abitazione. L'intento è quello di creare un materasso smart, di cui l'azienda ha già lanciato un modello sul mercato, che possa avvicinarsi alle nuove esigenze dei consumatori, circondati da dispositivi intelligenti, tra i quali, in un futuro che è già presente, c'è anche il luogo dove passiamo un terzo della nostra vita. L'obiettivo dell'azienda è quello di far sì che il materasso, in un prossimo futuro, possa essere sempre più parte della vita digitale, se si vuole, comunque non tanto per essere digitale, ma più che altro per dare le informazioni al consumatore per avere un sonno e un riposo migliore e per far sì che la vita di tutti i giorni sia migliore, perché comunque è provato che se uno dorme bene e dorme regolarmente più forte a livello immunitario, più forte, diciamo, ha proprio una vita migliore, tutti si ammala meno e così via. Quindi diciamo il goal nostro e l'obiettivo è quello di far sì che il consumatore abbia una visione cosciente, oltre a dormire bene, riposare bene, abbia una visione cosciente di quello che è il suo sonno e dove può migliorarlo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.